Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi voglio invitarvi ad una seduta di allenamento. Faremo ginnastica, però non alleneremo i muscoli ma il nostro cervello. È facile, divertente, molto redditizio. Le iscrizioni sono aperte, chiamate il nostro numero verde e mettetevi in gioco. 800 24 0024. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and circle forward. 2 3 4 5 6 7 8 and back. 2 3 4 5 6 7 8 and back. Forza, allora diamoci una mossa. Al nostro cervello piace molto tenersi attivo, gli stimoli e le sfide sono, direi, il suo nutrimento. Lo aiutano a mantenersi giovane, sano e a preservare, in alcuni casi a potenziare, le abilità. Le neuroscienze lo dimostrano. In linea con noi abbiamo il professor Stefano Cappa, docente di neuroscienze cognitive presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, come sta? Io sto bene, grazie. Professore, come tutti gli organi, anche il nostro cervello sente il passare degli anni e la cosa un po' ci preoccupa. Tutti noi abbiamo sentito raccontare quella storia un po' allarmante della perdita dei neuroni, circa 100.000 neuroni ogni giorno. Professor Cappa, sono numeri da paura, ci aiuta a capire che cosa succede? Ma allora, sui 100.000 neuroni al giorno è una, così, una di quelle storie che vengono sempre ripetute. Bisogna vedere su che stima è basata. Sicuramente il dato di fatto è che perdiamo neuroni, a differenza di altri, noi abbiamo un continuo cambiamento del cervello del nostro corpo. Il problema delle cellule nervose è che, come sa, anche se il dogma che non si rinnovano più è stato sfatato negli ultimi anni, perché è stata dimostrata una residua capacità di neurogenesi, cioè di formazione di neuroni, è chiaro che però il bilancio complessivo è in perdita, purtroppo. E di questo ce ne accorgiamo tutti. Sì. Senta, professore, ci sono però persone che invecchiano meglio di altre, non solo dal punto di vista fisico, no? Perché rimangono, come si dice, molto giovanile, ma anche mentale. Certamente. Immagino che la genetica e come lo stile di vita e l'ambiente svolgono un ruolo importante. Noi torniamo ad occuparci però del nostro cervello. Volevo chiedere che cosa possiamo fare per aiutarlo a mantenere o addirittura, mi allargo, a migliorare le proprie prestazioni. Si può fare? È un punto molto importante, perché visto che sulla genetica, come notava lei, ci possiamo fare poco, e sull'ambiente potremmo farci qualcosa, ma magari non lo facciamo. E in effetti la terza cosa che ha citato, lo stile di vita, è assolutamente essenziale. Diciamo che negli ultimi anni degli studi molto rigorosi hanno confermato un po' una serie di cose che sembrano poi consigli della nonna, che però non per questo vanno trascurati. Cioè è un dato di fatto che uno stile di vita sano ha un effetto protettivo, e nell'ambito dello stile di vita sano un ruolo essenziale sembrano avere diverse cose, ma due le vorrei sottolineare. Sì. Uno, l'esercizio fisico. Ci sono ormai dei dati molto convincenti di effetti protettivi di un'attività fisica regolare, non solo su tutto il corpo, come è noto, protezione vascolare, eccetera, ma anche proprio sul cervello. Dei dati scientifici molto solidi. L'altro punto, che forse quello che la interessa di più oggi, è l'aspetto dell'attività mentale. Sì. Anche lì abbiamo degli studi molto convincenti. Sono studi fatti con un metodo, diciamo, epidemiologico, vale a dire si va a vedere cosa succede nell'invecchiamento a una popolazione di cui sono state studiate le abitudini di vita, con dei questionari per esempio. Sì. E questo tipo di studio ha dimostrato che le persone che hanno una maggiore attività intellettuale, e poi magari cerchiamo di chiarire un po' meglio cosa si intende con questo, sembrano protette rispetto alle modificazioni della memoria, per esempio, che sono tipiche dell'invecchiamento. Quindi muoversi, fare esercizio fisico e tenere il cervello allenato, nutrirlo con degli stimoli, impegnato, aiuta a invecchiare bene. Professore, ma che cosa vuol dire? Cioè, quando lei mi diceva torniamo su questo punto, per farci capire che? Perché allora bisogna un po' intendersi su cosa si intende per attività mentale. La cosa più, diciamo, più convincente sarebbe dimostrare che fare degli esercizi ha un effetto di potenziamento delle capacità nell'anziano, no? Si diventa più bravi. Ora, qua i dati sono non completamente convincenti, nel senso che ci sono degli studi che dimostrano che, per esempio, se uno fa tantissimo, non so, il sudoku, il cruciverba, sì, cosa succede? Diventa bravissimo a fare il sudoku o il cruciverba, però non è detto che questo si trasferisca con su un miglioramento di altra capacità che non sarebbe stata direttamente, capisci quello che voglio dire? Quindi la cosa che sembra essere cruciale è fare dell'attività mentale, mantenersi attivi sul piano cognitivo attraverso cose tipo mantenere i propri interessi, mantenere un'attività anche lavorativa, se si vuole, diciamo effetti, diciamo, benefici derivano proprio da, in fondo si può considerare anche questo un aspetto di stile di vita, no? Assolutamente. Gli esercizi diciamo, per esempio quelli che vengono molto propagandati adesso, no? È possibile che abbiano degli effetti positivi sul cervello, però non abbiamo dei dati incontrovertibili. Quello che sappiamo per ora, per quello che sottolineavo prima, che le nostre, quello che noi sappiamo deriva soprattutto dagli studi di popolazione in cui si va a vedere cosa hanno fatto in passato gli anziani di adesso. Quello che noi vogliamo studiare, che stiamo cercando di studiare, è che cosa succede facendo degli interventi specifici adesso in un gruppo di soggetti. Professore, prima di salutarla, si dice sempre, no, prevenire è meglio che curare, una regola aurea, ma se per il fegato, i reni, il cuore, ci sono degli esami molto semplici che permettono di valutare lo stato di il loro stato di salute, per il cervello ci sono dei controlli? Sono suggeriti dei controlli da fare? Allora, mi lasci dire, prima di tutto non facciamo diventare anche questo una specie di fissazione nevrotica, cioè uno invecchiando si perdono un po' di capacità, le si compensa, si possono compensare, per esempio si perde un po' di memoria, si impara a usare meglio le agende, eccetera, eccetera. E voilà. Detto questo, quindi non facciamone una nevrosi, oddio sto perdendo la memoria. Detto questo, se uno ha l'impressione che in effetti c'è un peggioramento rilevante delle sue capacità, soprattutto a carico della memoria, l'indice più sensibile, no? Ne abbiamo forse già parlato in trasmissione. Sì. Quindi se uno ha la sensazione che c'è qualcosa che non va, è bene fare un controllo. Ci sono, direi che il primo livello è fare semplicemente un controllo con dei test, per esempio. Perfetto. Delle prove di memoria. Dopodiché, tipicamente, quello che lo specialista consiglia è ci rivediamo tra 6 mesi. Perché forse abbiamo già avuto occasione di dire, quello che è rilevante, deve far preoccupare e che deve far scattare magari tutta un'altra serie di esami, è che il disturbo sia progressivo. Certo. Professor K, quindi tranquilli, teniamo impegnato il nostro cervello anche con cose gradevoli, lettura, musica, relazioni interpersonali, hobby, attività fisica, quello assolutamente. Professore, io la saluto, la ringrazio davvero molto per essere intervenuto in trasmissione, grazie. Buona giornata. Harry, questa è Sally Albright, Harry Bones. Io e Harry abitavamo nello stesso palazzo. Già. Senti, devo prendere un aereo, è stato un piacere, Joe. Anche per me, Harry. Arrivederci. Grazie a Dio non mi ha riconosciuto. Ci ho fatto Chicago-New York insieme 5 anni fa ed è stata la notte più lunga della mia vita. Perché mai? Ci ha provato con me e quando gli ho detto di no, dato che stava con una mia amica... Oddio, non mi ricordo il suo nome. Non ti mettere con me, Joe, ho 26 anni e non mi ricordo nemmeno il nome di una ragazza di cui ero tanto amica da non voler andare col suo fidanzato. Da Harry ti presento Sally, da cui spesso con Laura Vanossi attingiamo per proporvi dei brevi estratti. Memoria, attenzione, concentrazione, ritmo. Questo sembra essere la ricetta per una buona ripresa, ma molti di noi, me lo state scrivendo, dopo le vacanze si sentono, è vero, riposati, ma un po' rallentati. Si fa fatica, no? Perché il nostro cervello sembra essere ancora impostato sui ritmi delle vacanze. D'altra parte, come dargli torto? Intanto voglio salutare il professor Giuseppe Iannoccari, che è qui in studio con me, neuropsicologo e presidente di Assomenti Insana. Buongiorno. Buongiorno a te Nicoletta e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Bentornato. Allora, lei oggi ci suggerirà cosa fare per riprendere il passo e darà anche qualche compito da fare a casa. Se avete qualche difficoltà a memorizzare, a concentrarvi, a prestare attenzione, a trovare le parole giuste, non allarmatevi, come ci ha spiegato il professor K, non ci sono delle prove scientifiche che dimostrano che facendo il cruciverba, il sudoku, il giochino di fitness mentale diventiamo degli Einstein o il nostro cervello ringiovanisce all'improvviso, ma sicuramente a tenerlo impegnato e ad affiancarlo, quindi naturalmente l'impegno mentale con dell'esercizio fisico, stiamo meglio e noi siamo qua per stare meglio, per continuare a stare bene. Professor Iannoccari, che dice? Sì, l'esercizio fisico è sicuramente il principale strumento che può dare il benessere anche alle nostre facoltà mentali. È chiaro che la ginnastica mentale, sempre da più studi, insomma, si rileva che è un'attività che dà beneficio. Ultimo è uno studio dell'Università della California che ha somministrato a 115 anziani con età media di 81 anni degli esercizi di fitness della memoria e si è rilevato che oltre a migliorare le capacità di memoria, gli esercizi di ginnastica mentale sono stati anche generalizzati sulle altre attività quotidiane. Era quello che diceva prima il professor K rispetto al fatto che si diventa poi competenti nell'esercizio che viene fatto. Di fatto l'obiettivo di questi allenamenti è di generalizzare il beneficio anche alle altre attività quotidiane. Allora, per una ripresa con un pochino più di sprint, che cosa possiamo fare? Beh, rientrare dalle ferie comporta una sensazione ambivalente verso i nuovi impegni. Da una parte il ritmo lento che abbiamo goduto durante le ferie si trascina anche nei primi giorni del rientro e causa una sensazione di fastidiosa spossatezza. Dall'altra parte la fase di stacco ci ha rinfrancati dalle fatiche precedenti e dà una rinnovata energia per intraprendere. Bravo, diciamo, è su questa che vogliamo quotidiani. Fare ecco. Leva. Come fare per mettere d'accordo le due tendenze? Abbiamo tre suggerimenti. Sì. Allora, il primo, approfittare delle ore di luce per concedersi una passeggiata all'aria aperta. Perché? Spesso rientrare alle attività quotidiane significa rientrare in ufficio piuttosto che a casa, quindi spazi diversi rispetto a quelli che abbiamo frequentato in vacanza, quando magari abbiamo passato molto tempo all'aperto. Quindi ritrovarsi in spazi più piccoli, magari con una luce artificiale, può modificare i nostri ritmi fisiologici. Quindi che cosa fare? Due volte al giorno approfittare per fare almeno una mezz'ora di passeggiata. Certo. Dove possibilmente ai giardinetti o al parco se è possibile o in viali alberati. Perché? Perché il verde rilassa. E poi sono luoghi dove noi spesso troviamo persone che sono rilassate, per cui ci contagiano in qualche modo. Questo facilita sia, diciamo, la salute, perché comunque ci esponiamo ancora al sole, questo ci dà i benefici che noi sappiamo sulla produzione della vitamina D, e facilita anche un miglior tono dell'umore, quindi aiuta ad incrementare l'ottimismo, perché ci dà occasioni di socializzare, ci dà il beneficio dell'attività fisica di cui si parlava prima e di conseguenza si prendono due piccioni con una fava. Il secondo consiglio è quello di riprendere lentamente la routine quotidiana, magari inframmezzandola spesso con delle pause di 5-10 minuti, approfittando per chiacchierare magari con i vicini, con i colleghi, oppure fare qualche telefonata a persone che abbiamo conosciuto durante le ferie per ricordare, sì, diciamo, quei tempi. Questo fa sì che le facoltà mentali, specie quelle come l'attenzione e la memoria, non subiscano un brusco, diciamo, sì, rientro a ritmi che non erano quelli adottati durante le vacanze. Facciamo una sorta di riscaldamento. Esatto. E il terzo consiglio? E il terzo consiglio è quello di programmare nuove attività culturali. Approfittiamo del rientro dalle vacanze per prendere decisioni su nuove attività che possono essere culturali, possono essere sportive, possono essere ludiche, quello che vogliamo. E magari abbandoniamo anche qualcuna di quelle noiose attività che prima svolgevamo e che forse è il caso adesso di abbandonare. Abbiamo Fiorella che ci chiama da Bologna e poi subito dopo Lucia da Roma. Fiorella, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho 63 anni, ho una zia che ha fatto i 92 anni in aprile, e devo dire che vive da sola, adesso è in montagna, è da 2 mesi che è da sola in montagna. Sì. E io, diciamo, lei per esempio è una che ha sempre, se non un po' il giornale, letto poco, cioè in questo senso, cioè io per esempio leggo, ma però voglio dire, se dovessi confrontarmi e pensare alla vita di questa persona, diciamo, non ha mai fatto sport, però lei tutte le mattine per esempio va a fare una passeggiata, parliamo Bologna, e la va a fare nel centro, perché lei è una persona che devo dire che è sempre curiosa della vita, cioè io se devo, diciamo, se voglio, vorrei essere come lei. Anch'io, Fiorella, facciamoci dare dei consigli da sua zia, 92enne, curiosa della vita, che passeggia per il centro di Bologna, sì, d'altronde lei... Bologna è una città magnifica, poi con tutti quei portici si può passeggiare anche d'inverno, un po' come succede a Torino, e lei sta benone. Quindi il segreto della zia di Fiorella che cos'è? La curiosità e l'amore per la vita? Sì, Fiorella, il segreto della... Ma io penso di sì, cioè lei magari mentre passeggia, dopo ti racconta, ma sai, ho visto, lì hanno chiuso quel tal negozio, ma la stanno costruendo, cioè lei è sempre... Fiorella, sa che lei ha detto una cosa importante, io ne parlavo proprio prima con il professor Iannoccari, cioè... Far catturare la nostra attenzione da tanti dettagli e provare a ricordarli, vero professore? Questa è una buona ginnastica, un esercizio che possiamo suggerire ai nostri ascoltatori? Assolutamente, la zia di Fiorella attiva proprio quelle capacità di attenzione che servono per mantenere attiva la mente. Ricordiamoci che l'attenzione e la concentrazione sono le gambe della memoria, per cui passeggiare per le strade e osservare i dettagli significa mantenere il nostro sistema attentivo sempre sempre vigile, per cui questo fa sì che venga potenziato e di conseguenza la nostra mente non si distrae, non va dove vuole lei. Daremo dei compiti, li darà lei perché lei è il professore, da fare in diretta qua con noi e poi da fare anche a casa. Ma prima voglio sentire Lucia che ci chiama da Roma all'800 24 0024. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho 68 anni e oltre che a giocare a golf, gioco a bridge su internet. Volevo sapere se era sufficiente o se dovevo fare altri esercizi. Professore, le sembra una abbinata? Bella, una abbinata vincente sicuramente, perché il golf è un ottimo esercizio di concentrazione e poi consente anche di stare in degli spazi che sono veramente privilegiati. Il bridge è un'attività, un gioco importante che impegna le nostre facoltà mentali, vanno benissimo. Quello che io suggerisco è di cambiare anche ogni tanto gioco, perché ci sono persone che diventano specializzate in alcuni giochi e a quel punto le nostre facoltà mentali non vengono più stimolate perché non hanno novità. Per cui va benissimo fare ciò che ci piace, ogni tanto facciamo qualcosa di nuovo. Vogliamo allora far sentire ai nostri ascoltatori i compiti per casa che lei ha preparato? Andiamo con la nostra scheda. Per l'attenzione. Contate all'indietro da 100 saltando di 3 in 3, 100, 97, 94, 91, eccetera, o di 4 in 4 o altri numeri a scelta. Per il linguaggio, dedicate 3 minuti 2 volte al giorno a trovare rapidamente il maggior numero di parole che iniziano con una certa lettera dell'alfabeto: cane, canoa, cavallo, carabiniere, caramella. Per la memoria, leggete 10 insegne di una via che percorrete solitamente e poi ripetetele a memoria. Per il ragionamento, fate operazioni matematiche mentalmente, svolgete giochi enigmistici o buttatevi sul sudoku. Professore, ma noi gli esercizi li facciamo anche in trasmissione, procederei con quello che possiamo definire un esercizio aerobico per i nostri neuroni, giocando con le parole. Certo. Allora, facciamo questo esercizio. Vi do un elenco di parole e voi dovete formulare una frase di senso compiuto che comprenda tutte queste parole. La prima, segnate, è Radio 24. Poi... benessere, orecchio, macchina, amica, ginnastica. Bene. Dobbiamo formulare una frase, naturalmente possiamo utilizzare anche altre parole per dare un senso compiuto alla frase, ma queste devono essere le parole chiave. Radio 24, ci mancherebbe. Benessere, perché siamo a essere benessere. Orecchio, che tra l'altro è anche il simbolo di Radio 24. Macchina, amica, come mi piacerebbe essere per voi, e ginnastica, stiamo facendo la ginnastica mentale. Pronti quindi a chiamarci all'800 24 00 24. Tra l'altro questo esercizio ha un suo scopo, ha una finalità. Professore, vogliamo raccontarla rapidamente prima dei mercati? Sì. Perché Pietro Alacorte, che è in regia, ringrazia la parte tecnica, mi sta facendo segno che è pronto. Quale competenza possiamo allenare con questo esercizio? Ben due: il linguaggio e le funzioni esecutive, cioè la capacità di pianificare. Allora, pronti con la frase? 800 24 00 24, scatenatevi, perché a vostra disposizione ci sarà un libro freschissimo di stampa, esce oggi, e quindi alle frasi con senso compiuto che piaceranno al professor Iannoccari, voi che vi spremete le meningi sarete ripagate tra virgolette con un libro freschissimo di stampa di cui parleremo tra poco. Essere e benessere. Il comitato aziendale ha speso i soldi del fondo cassa per una fondamentale panca svedese da massaggi. Vedere? È compresa anche la svedese, spero, nella spesa. E qual è il problema, Luca? Il massaggio è una cosa molto in uso negli States. Il personale è più rilassato, quindi rende di più. Negli States? E il massaggiatore arriva direttamente da Malibu? Cos'è, un energumeno con i pettorali di fuori e gli slip a stelle e strisce? Ma mi faccia il favore, su. Niente massaggiatore, la panca viene spedita con una guida al massaggio e poi ci massaggeremo tra noi, sarà bellissimo. Non si muove di qui, Jessica. Vado in mensa a prendere l'olio. Ma noi non andiamo in mensa a prendere l'olio, siamo tornati in linea e diamo subito la parola alla dottoressa Tiziana D'Onofrio, direttore scientifico del Centro Studi per le Medicine Naturali IDO di Teramo. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno, grazie, buongiorno. E abbiamo ripreso il passo con Camera Caffè, perché non parliamo di olio con cui condire la pasta o la verdura o l'insalata, l'olio extravergine d'oliva, prezioso, di lunga vita, ma questo lo vogliamo sempre ricordare, ma parliamo di oli essenziali, anche loro possono dare una mano al nostro cervello? Benissimo, certo, più di una mano, possono aiutarci davvero a recuperare energia, efficienza e a combattere quello che noi chiamiamo stress o stanchezza o vuoto mentale. Io proponevo oggi di incontrare e di conoscere due oli essenziali. Sì. Uno proprio delle nostre terre, della nostra macchia mediterranea, un olio essenziale buonissimo che chiunque lo provi una volta si innamora per sempre, la Melissa officinalis. Sì. Una pianta che nasce spontaneamente, per esempio, qui nel nostro Gran Sasso, una pianta che si raccoglie quasi per strada ed ha un aroma veramente gradevole e una capacità di agire in profondità sul cervello attraverso i meridiani, questi canali di agopuntura che piano piano stiamo imparando a conoscere anche grazie a voi, devo dire. L'altro invece, per chi è amante delle cose esotiche, l'olio Ylang Ylang, viene da lontano, anche questo ha un ottimo, un eccellente impatto energetico sui meridiani e sui punti di agopuntura. Allora, questi oli essenziali possiamo utilizzarli massaggiandoli su dei punti specifici che lei ci insegnerà a trovare. Sono i punti su cui gli agopuntori mettono gli aghi. Naturalmente non possiamo metterci gli aghi da soli, deve essere un medico a farlo. Certo. Mi scusi, ma questo voglio sempre sottolinearlo. Ma lei ci può indicare il punto semplice su cui, con un leggero massaggio, esatto, applicare l'olio essenziale. Esatto. Allora, i punti che impariamo a conoscere oggi sono due. Sì. Uno è un punto bellissimo, si trova sull'apice della testa, è il 20 vaso governatore, il suo nome è 100 riunioni. Cento riunioni? Cento riunioni, no, è bellissimo che ci fa capire perché Bai Ui è il nome cinese. Cento riunioni è il punto più alto della nostra testa e, secondo la medicina cinese, è il punto in cui noi ci ricarichiamo, ci colleghiamo alle energie yang, le energie leggere, le energie luminose. Quindi è proprio davvero un punto importante per il nostro cervello. lo troviamo facilmente, quindi punto più alto del cranio, sì. Si massaggia con una sola goccia di uno di questi due oli essenziali, sì. Massaggiato per circa un minuto o due. E l'effetto, vi garantisco, è straordinario. L'altro punto si trova sul viso, è il 18 del piccolo intestino, Quan Liao, il nome cinese, foro della guancia, la traduzione, facile da trovare. L'osso zigomatico è quell'osso sul volto che troviamo nella nostra guancia, facilissimo da individuare, sì. Lo zigomo. Se tracciamo una perpendicolare che scende giù dal canto esterno dell'occhio, sì. Sotto l'osso zigomatico troviamo questo punto, foro della guancia, 18 sì. Piccolo intestino. Anche qui una goccia di olio essenziale puro, una sola goccia, sì. Massaggiata per un paio di minuti. E la Melissa officinalis, e l'effetto è garantito. Allora andremo di massaggio. Intanto la ringrazio, bene. Dottoressa D'Onofrio, buona giornata. Grazie anche a voi. Buona ripresa, buon invecchiamento, perché questo è un augurio di cuore. Buon lavoro. Grazie, grazie a lei. Intanto continuano ad arrivare via SMS e al nostro centralino le frasi che devono contenere, ve le ripeto, queste parole: Radio 24, benessere, orecchio, macchina, amica, ginnastica. Abbiamo Laura che ci chiama da Trento. Buongiorno. Buongiorno. Laura, lei è pronta? Sì. Allora, proviamo, mi dica. Allora, mentre vado in macchina con la mia amica per andare a fare ginnastica, ascolto la trasmissione di Radio 24 Essere Benessere che parla di disturbi all'orecchio. Brava Laura! Allora, adesso, insieme agli altri ascoltatori che ci chiameranno con una frase che contenga tutte queste parole, Laura riceverà un libro freschissimo di stampa, di cui vi faccio sentire un breve estratto. Viviamo in una società che ci blocca e non ci dà la possibilità di esprimere la nostra creatività e la nostra identità. Dovremmo invece dare ai ragazzi l'opportunità di raccontare il nostro tempo attraverso la musica, la poesia, la letteratura, come solo loro sono in grado di fare. Allora sentirebbero dentro di sé l'unicità, che porterebbe con sé un'emozione più grande di qualsiasi stupefacente. Ma la società sta andando in tutt'altra direzione e considera il successo una questione di numeri. Io mi rifiuto. Evviva l'individuo! E io saluto Giovanni Allevi, pianista, direttore d'orchestra, anche scrittore, oggi in libreria, ma soprattutto oggi a Essere Benessere con il suo nuovo libro, Classico Ribelle, edito da Rizzoli, che abbiamo letto in anteprima con voi. Giovanni, ciao! Buongiorno, che bello essere con voi, grazie di questo invito. Bentornato, senti, tu sei un vero multitasking perché no, sei pianista, direttore d'orchestra ma anche scrittore. Voglio sapere da te che genere di allenamento fai ogni giorno per reggere tutte queste sfide che devi affrontare. Allora, prima di tutto la lentezza, infatti mi ispiro anche un po' alla natura e penso che un fiore sboccia a primavera, che non possiamo costringerlo a sbocciare prima, no? E allora con calma, lasciamo che le cose accadano e facciamo manifestare lentamente ciò che abbiamo da dire dentro. Questo è importante, quindi prendersi i tempi. Giovanni, tu ti siedi davanti al piano senza spartito, no? E vai avanti per l'intero concerto. Io parlo per me, magari gli ascoltatori sicuramente ne sanno molto di più, ma per me, insomma, vederti suonare così a memoria, mi sembra, anche altri pianisti lo fanno, ma mi sembra una cosa straordinaria. Uno pensa, ma come faranno? Magari la stessa cosa che fanno gli attori quando salgono sul palco, ma insomma c'è bisogno di grande allenamento. Che cosa succede? Ci sono degli appigli, bisogna fare in modo che la protagonista assoluta in quel momento diventi la musica, e io, almeno in particolare come la vivo io, divento una sorta di marionetta di plastica, di gomma nelle sue mani. riuscire a fare il vuoto interiore e abbandonarsi al fluire delle note, perché sono loro che poi guidano le mie dita e il mio cuore verso l'esecuzione. Una cosa un po' zen. Senti, è un piccolo, possiamo anche trasferirlo nella nostra vita quotidiana, nei nostri impegni, professor Iannoccari, quando dobbiamo preparare una relazione, svolgere un compito importante, sia per chi lavora in ufficio, sia per chi, come mi fa notare un ascoltatore, lavora in campagna, per chi quando ci dobbiamo concentrare e fare qualche cosa. Giovanni, nel tuo nuovo libro tu racconti tanti piccoli e grandi episodi della tua vita, sia di quando eri sconosciuto, sia di adesso che sei molto famoso. È chiaro che per un artista è meglio essere famoso che sconosciuto, perché significa acquisire valore anche agli occhi di un pubblico. Ma siccome oggi parliamo di competenze, ci vogliono più competenze per vivere una vita da famoso o una vita da sconosciuto? Tu cosa saresti mai aspettato dalla tua vita da star? Dunque, intanto voglio andare controcorrente, essendo ribelle, e credo che essere famosi non è tutta questa cosa, sinceramente. La maggior parte della musica che ho scritto l'ho concepita da totale sconosciuto, e se non fosse per quella musica oggi io non sarei qui. Quindi probabilmente riuscire a ricavarsi questo angolo privato, lontano dalle luci accecanti e dagli abbagli, probabilmente è importante, perché bisogna avere il tempo di concentrarsi su ciò che è essenziale, cioè la musica da esprimere. Poi la fama, quella è una conseguenza che oggi c'è, domani magari non c'è, ma l'importante è fare con il cuore ciò che si vuole fare nella vita. Non so se ti ho risposto. No, mi hai risposto, Giovanni, un abbraccio. Ricordiamo Classico Ribelle, edito da Rizzoli, che gentilmente ci ha offerto 3 copie che faremo ricevere ai nostri ascoltatori, che Giovanni hanno costruito una frase per allenare le competenze del linguaggio e quella della memoria con delle parole che abbiamo suggerito. Grazie a Giovanni Allevi. Grazie. Che speriamo di avere qua in carne e ossa presto, e Riccioli. Ti abbraccio, grazie. Grazie davvero, arrivederci, ciao. Grazie. Ciao. Essere e benessere. La musica aiuta il cervello, tra l'altro, professor Iannoccari. Imparare a suonare uno strumento musicale, anche in tarda età, naturalmente non si diventerà un professionista, ma che importa, no? Si può imparare io vorrei imparare a suonare la fisarmonica. Sono anni che me lo ripeto, da quando ho visto Pane e Tulipani, e quest'anno mi regalerò una fisarmonica e poi prenderò lezioni, e magari che sia la volta buona che divento intelligente. Professore, ma c'è una relazione tra musica e cervello e imparare a suonare uno strumento musicale? È vero che fa fare una piacevole ed efficace ginnastica? Assolutamente, la musica è una delle ginnastiche più complete che si possano fare. Degli studi ormai scientifici consolidati dimostrano la relazione tra lo studio di uno strumento musicale e la longevità delle nostre cellule cerebrali, per cui l'invecchiamento rallenta se noi abbiamo iniziato già da piccoli, possibilmente, a suonare uno strumento. Ma questo, io non sono più piccola, ma non importa, vale. C'è sempre qualunque età, non c'è un'età in cui qualcosa non si può fare. Ragazzi miei, non è mai troppo tardi. Noi qua a Essere Benessere vogliamo proprio aiutarci, perché aiutate anche voi chiamando da casa, a trovare sempre nuovi stimoli, a imparare a fare delle cose buone, ad apprezzare quelle che stiamo facendo, che ci aiutano a stare bene, quindi alimentano il nostro benessere, soprattutto ci insegnano a prenderci in mano, diventare soggetti attivi della nostra salute. Intanto tantissimi messaggi, voglio leggerne anche qualcuno che sta arrivando al 349-238-6666. Stia attento, professore. Certo. Sono spesso in macchina, Radio 24 è la mia amica di compagnia, e ascoltarla mi dà benessere alla mente, come fare ginnastica. Manca orecchio, è vero, è vero, è vero. Ne leggo un altro. Una mia amica mi ha parlato in macchina del programma di Radio 24, Essere Benessere. L'ho scoperto ed è un'ottima ginnastica per corpo e mente. Aia, manca anche, orecchio. Anche l'orecchio, ma ricordatevi l'orecchio. Gianfranco da Napoli, buongiorno. Questo buongiorno. È un super aiuto, Gianfranco, lei se l'era ricordato l'orecchio? Certo. Io presto sempre orecchio alla sua radio, specialmente quando ci sta lei. Ah, Gianfranco, allora guardi, già è lì, come... Allora Gianfranco, la frase. Allora, quando sei in macchina presto orecchio all'amica di Essere Benessere di Radio 24 e farai un'ottima ginnastica mentale. Questo glielo prendo come promo del programma. Certo. Classico Ribelle, edito da Rizzoli, arriverà a casa Gianfranco da Napoli. Grazie Gianfranco. Gentilissima. Grazie anche lei, buona giornata. E abbiamo anche Rossella da Roma. Rossella, buongiorno. Buongiorno. Qua ti piace vincere facile, perché adesso ormai, Rossella? Bene, come no, ci troviamo. Cioè, sì. Allora, sento Radio 24 in macchina, dopo aver fatto ginnastica per il mio benessere con un'amica, e tengo l'orecchio ben aperto ascoltando Radio 24. Rossella, bravissima. Allora, anche per Rossella il libro di Giovanni Allevi, che esce proprio oggi, quindi vi sto dando una cosa fresca di più, freschissima, Classico Ribelle. E dopo tutti questi consigli per tenere impegnata la nostra mente, attenzione, dobbiamo anche non solo occuparci di impegnare il nostro cervello, ma anche di ridurre lo stress, che funziona un po' come veleno. Ce ne parla il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno a tutti, buongiorno. Il dottor Ongaro lo conoscete perché è intervenuto tante volte in trasmissione, l'avete visto in un programma della Sette molto interessante, ma soprattutto anche un esperto del nostro Daily Lab ed è vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Il nostro Daily Lab continua, andate sul sito. Dottor Ongaro, lo stress è veleno per il nostro cervello e quindi noi lo alleniamo con la ginnastica mentale, gli stimoli, però se lo stressiamo, insomma, non va bene. Beh, non c'è dubbio, direi ovviamente che lo stress fa parte di una serie di impulsi negativi che colpiscono il cervello, mentre ovviamente la ginnastica e tutte le cose di cui avete parlato in questa puntata sono impulsi e stimoli necessari e positivi. Certo, lo stress non va sottovalutato e dimenticato, spesso noi medici diciamolo consideriamo come una cosa scontata, no? Sì. Ma facciamo poco per ridurlo. Lo stress in realtà sul cervello fa proprio un danno anatomico, questo è stato riscontrato, l'elevata produzione di cortisolo, che è l'ormone che aumenta con lo stress, danneggia alcune zone del cervello, come per esempio l'ippocampo, dando dei veri e propri deficit, soprattutto a livello della memoria. Quindi il primo passo per gestire lo stress è quello di essere consapevoli che c'è e consapevoli del fatto che non serve cambiare vita al 100%, ma basta magari introdurre qualche piccola regola. Cosa bisogna fare? Liberare un po' il cervello, che fa parte anche del discorso di allenare il cervello, cioè carico e scarico, così come si fa col corpo o degli atleti. Quindi anche il cervello ha bisogno dei momenti di libertà. La meditazione può essere uno di questi, ognuno può trovare le tecniche più affini, diciamo, a se stesse, alla propria tipologia di personalità, o anche delle ginnastiche vere e proprie che coinvolgono il corpo, come può essere lo yoga, come può essere il tai chi. Quindi ci sono vari modi di intervenire sullo stress, l'importante è non dare per scontato che siamo tutti stressati, perché questo diventa semplicemente un modo poi per non fare niente, come purtroppo accade molto spesso. Assolutamente, quindi lo stress si può ridurre, dobbiamo imparare a gestirlo. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi, ringrazio anche il professor Iannoccari, ricordando che dal 19 al 24 c'è una settimana, pensate, di prevenzione dell'invecchiamento mentale. Esperti di tutta Italia misureranno lo stato di salute del vostro cervello, basta andare sul sito di Assomensana. Io voglio salutarvi, posso salutarvi con comodo, abbiamo a ringraziare Laura Vanossi in redazione, oggi non sforo, sono le 11.56 e 12, ho quindi ancora il tempo per ricordarvi di mandarci le vostre ricette, le vogliamo mettere sulla nostra pagina di Facebook, ne stanno arrivando diverse, tutte gustose. Voglio ricordarvi ricordarvi di andare a fare un saltino sul nostro Daily Lab, un consiglio ogni giorno diverso da esperti diversi per il nostro benessere. E poi voglio dire scaricatemi, ma io torno domani dopo le 11. Buona giornata. Essere e benessere.